Ringraziando tutti per l'ascolto, Walter per la regia, l'appuntamento lo rinnoviamo a martedì prossimo. Sperando che ci sia, perché le elezioni imperversano. Imperversano. A tutti.